Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per quanto riguarda asseriti collegamenti obliqui o inquinanti tra le organizzazioni non governative o parti delle organizzazioni non governative o elementi individuali con trafficanti, noi non abbiamo avuto nessun elemento investigativo, eppure ci sono stati centinaia e centinaia di persone che hanno parlato su questo punto. Insomma, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, come avete sentito, prosegue questo dibattito acceso, questa discussione sulla presunta collusione tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani, che era stata avanzata giorni fa dal procuratore di Catania Zuccaro. Poi c'è stato il ministro dell'interno Minniti, che ha detto: non sono accuse da sottovalutare, ma indagheremo. E Bubbico, vice ministro dell'interno, che abbiamo avuto qui effetto notte, che ha detto: mi sembrano dichiarazioni quasi di un sociologo, quasi di un passante, vanno queste accuse comprovate con i fatti, diceva. E poi oggi avete sentito invece il procuratore di Siracusa, che dice che a lui non risultano che vi siano appunto questa complicità tra organizzazioni non governative e trafficanti di esseri umani. Insomma, sapete che ormai è entrato a pieno titolo nel dibattito, nella discussione, nel bisticcio anche politico, questa vicenda cavalcata chi la tira da una parte, chi la tira dall'altra, e quindi destinata ad andare ancora avanti finché non ci saranno appunto dei fatti chiari e concreti. Ma noi parleremo di molte altre cose questa sera. Ci occuperemo naturalmente della crisi di Alitalia, perché il ministro Calenda ha emesso questo decreto che fa passare Alitalia direttamente all'amministrazione straordinaria. Capiremo quali potrebbero essere le conseguenze, e conseguenze anche per quanto riguarda invece questi rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Nord Corea. In Francia invece una gaffa piuttosto grave della candidata al ballottaggio del 7 maggio, Marine Le Pen, e Michelon, il candidato della sinistra radicale, che dice, si attendeva un po' la sua decisione su come avrebbe spostato i voti da una parte o dall'altra dei suoi sostenitori, dice: sono per l'astensione. Insomma, molti fatti anche stasera sui quali potete interagire con Effetto Notte, sia sulla pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al numero 349-238-6666, 349-238-6666, prima di approfondire i vari argomenti, il riassunto della giornata. All'Italia la compagnia ammessa all'amministrazione straordinaria, nominati tre commissari, prestito dello Stato da 600 milioni di euro. I presunti legami tra ONG e trafficanti non risulta che vi siano, dice il procuratore di Siracusa, e il presidente del Copasir, Stucchi, precisa che non c'è alcun rapporto dei servizi segreti. Disoccupazione torna a salire, boom per gli over 50, ma i giovani senza lavoro sono ai minimi da 5 anni, al 34,1%. La strage delle donne nelle ultime 24 ore sono 4, le donne uccise per mano di uomo a Genova, Roma, nell'Interland di Cagliari e nel Salernitano. La morte in Svizzera di DJ Fabo, chiesta all'archiviazione per Marco Cappato. Libia, accordo tra il primo ministro Sarraj e il generale Haftar, nuove elezioni nel 2018. Corea, il Nord accusa gli Stati Uniti, la Cina non vuole lo scudo a Seul, sì di Trump a vedere Kim, ma per ora dice mancano le condizioni. Merkel a Putin, proteggere i diritti dei gay in Cecenia, dice la cancelliera dopo una serie di reportage sulla polizia cecena che arresta, tortura e uccide le persone sospettate di essere omosessuali. Addio Valentino Parlato, militò nel PC fino all'espulsione nel 1969 e fu tra i fondatori del Manifesto. Clima, nuovo record per la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, in anticipo rispetto alle previsioni degli esperti. E poi il ciclismo, il Giro Maggio, omaggia Michele Scarponi, dedicato a lui la salita del Mortirolo. Partiamo quindi dalle decisioni per Alitalia. Dopo la bocciatura nei giorni scorsi del piano di salvataggio da parte dei lavoratori, il ministro Calenda ha disposto oggi un decreto, con decreto l'ammissione di Alitalia all'amministrazione straordinaria. Sono tre i commissari scelti: Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari. Gubitosi si occuperà della gestione dell'azienda, Laghi dei rapporti con il governo e della parte legale. Intanto James Hogan, numero uno di Etihad, dicendosi rammaricato, ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per supportare Alitalia. Dice: ma è chiaro che la compagnia ha bisogno di una ristrutturazione profonda e su vasta scala. Il prestito ponte per Alitalia sarà di 600 milioni. Sentiamo il commento del ministro Del Rio. Vogliamo difendere i diritti degli italiani a muoversi, i diritti dei lavoratori, fino a quando non si troverà un compratore adeguato che permetta anche di non far perdere valore a questa azienda, che ha un, uno storico brand e che è così importante per i collegamenti interni. E dopo torneremo naturalmente a parlarne, ma passiamo alla vicenda dei presunti legami tra organizzazioni non governative e trafficanti. La discussione attorno al ruolo delle ONG nel Mediterraneo resta accesa, lo avete sentito dall'inizio. Il procuratore di Siracusa afferma di non avere raccolto nessuna prova a supporto di un possibile legame tra organizzazioni e scafisti. Il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per il Controllo sui Servizi Segreti, smentisce di avere un rapporto in merito e la CEI definisce l'attacco politico ipocrita e vergognoso. Non esiste alcun dossier dei servizi segreti su presunti rapporti fra scafisti e ONG. È il presidente del COPASIR, il leghista Stucchi, a smentire le voci circolate negli ultimi giorni dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Catania Zuccaro. Dalle nostre indagini non emergono rapporti del genere, fa sapere in un'audizione al Senato anche il capo della procura di Siracusa, Giordano. Per quanto riguarda asseriti collegamenti obliqui o inquinanti tra le organizzazioni non governative o parti delle organizzazioni non governative o elementi individuali con trafficanti, noi non abbiamo avuto nessun elemento investigativo. Medici Senza Frontiere dal canto suo nega di avere rapporti con i trafficanti e passa al contrattacco Stefano Argenziano, responsabile del programma Migrazioni di MSF. Medici Senza Frontiere è indignata davanti alla campagna strumentale di manipolazione che è iniziata da alcune settimane a queste parti. A fianco delle ONG nel frattempo si schiera anche la Conferenza Episcopale Italiana, che giudica ipocrita e vergognoso il fuoco politico che in modo indistinto sta colpendo chi salva vite umane. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I dati sulla disoccupazione: a marzo risale all'11,7%. Per la prima volta i disoccupati over 50 sono più dei giovani, lo rivela l'Istat sulla base dei dati provvisori. Sorpasso a marzo sul fronte disoccupazione. I senza lavoro con più di 50 anni hanno superato per la prima volta dall'inizio delle serie storiche mensili dell'Istat il numero dei disoccupati giovani. Mentre risale in generale ancora la disoccupazione, a marzo all'11,7%, tra i disoccupati migliora infatti il dato sui giovani. Tra i 15 e i 24 anni sono ai minimi da 5 anni. E anche sul fronte occupazione, gli over 50 in crescita da diversi mesi subiscono un assestamento e a sorpresa l'occupazione aumenta nelle restanti classi di età, in particolare quelle più giovani. Spiega perché Claudio Ceccarelli, capo servizio sistema integrato di lavoro, istruzione e formazione Istat. Nella categoria degli over 50 questo dato sulla disoccupazione in qualche modo ce l'aspettavamo, perché anche in passato ci sono state delle oscillazioni, aumento e diminuzione della disoccupazione. Assieme alla diminuzione dell'occupazione, non dico preoccupante, ma insomma sono situazioni che vanno verificate. I giovani, e c'è un dato positivo su base mensile quasi ad assorbire completamente il calo dell'occupazione degli over 50. Ci sono effetti di compensazione perché l'occupazione nel complesso è praticamente stabile da circa 6 mesi. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tocca parlare quasi costantemente della strage delle donne, sempre più forte l'allarme femminicidio. Soltanto tra ieri e oggi sono 4 le donne uccise per mano maschile a Genova, a Roma, nell'Interland di Cagliari e nel Salernitano. Nel 2016 ne sono state contate di donne uccise da uomini 120. Dal 1 gennaio 2017 le donne uccise per mano maschile sono in una media di una vittima ogni 3 giorni. Negli ultimi 10 anni le donne uccise in Italia sono state 1740. La morte in Svizzera di Jay Fabo, la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio per la morte appunto di Fabiano Antoniani. Il 27 febbraio scorso aveva accompagnato DJ Fabo a morire in una struttura in Svizzera e poi si era autodenunciato per aiuto al suicidio. Ora la procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato, tesoriere della Fondazione Luca Coscioni, perché le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita, si legge nel provvedimento di archiviazione, quando siano connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenze o ritenuta intollerabile e o indegna dal malato stesso. In pratica, per i magistrati, Marco Cappato ha aiutato DJ Fabo ad esercitare il diritto alla dignità umana. Il provvedimento dovrà ora passare al vaglio di un GIP prima di diventare definitivo. In attesa della decisione, ha commentato Cappato, posso confermare che è in corso e continuerà l'azione di aiuto alle persone che vogliono ottenere in Italia o all'estero l'interruzione delle proprie sofferenze. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica. Dopo la vittoria alle primarie del PD, Matteo Renzi si prepara all'assemblea fissata per domenica. Il suo mandato sarà contrassegnato da umiltà e responsabilità, a prometterlo il segretario PD Matteo Renzi, che annuncia l'Assemblea Nazionale di domenica 7 maggio. Darà via al mandato 2017-2021, dove illustrerà ai 1000 delegati le proposte di lavoro. Il neo segretario non perde tempo nell'attaccare le fake news ai 5 Stelle. Sul web, promette Renzi, sta per iniziare la nostra controffensiva contro le falsità di chi ha fatto credere che fosse politica far diventare virali le bufale online, guadagnandoci con la pubblicità. Il segretario rieletto attacca poi Beppe Grillo, che ha criticato le primarie Dem. Si preoccupi delle sue, non mi pare che a Genova gli siano venute benissimo. Il Movimento 5 Stelle replica invece sulla legge elettorale. Per Alessandro Di Battista il Movimento è disposto a valutare correttivi di governabilità e limitati interventi sulle soglie di sbarramento. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è un lutto nella politica. Addio Valentino Parlato, fondatore del Manifesto. Orgogliosamente comunista per tutta la vita, come si legge sul sito del Manifesto, ci ha lasciati Valentino Parlato, scrittore e giornalista. Ciao Vale, si legge sul sito, che a lui dedica una foto in bianco e nero e solo poche sentite parole. Nato a Tripoli nel 1931, Parlato aveva 86 anni e di lui non si può non ricordare l'espulsione dal PC nel 1969 insieme a Rossana Rossanda e Luigi Pintor. I tre, nello stesso anno, diedero vita prima al mensile e poi al quotidiano comunista, di cui Parlato fu più volte direttore. L'ultimo comunista, potremmo dire, conscio però della fine dei partiti, a voler giudicare le ultime dichiarazioni rilasciate nel novembre scorso. Annunciando il suo no al referendum del 4 dicembre, Parlato confessò di avere votato a Roma per Virginia Raggi, sindaco. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, e l'assessore ai lavori pubblici Stefano Bucari, entrambi del PD, sono stati arrestati ai domiciliari nell'ambito di un'indagine di polizia e guardia di finanza su una serie di appalti di servizi pubblici a cooperative locali. E poi, per quanto riguarda l'estero, l'accordo per la Libia, nuove elezioni entro marzo 2018 e scioglimento di tutte le milizie irregolari. Questi sono i punti principali di un'intesa che è stata raggiunta ad Abu Dhabi dal premier libico al-Sarraj e dal generale Haftar. Per la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti, la Corea del Nord accusa l'America di voler arrivare a una guerra nucleare nella regione, perché dice hanno fatto volare bombardieri strategici con obiettivi principali nel nord, e mentre Seoul, Corea del Sud, annuncia che opera il sistema antimissile americano nel sud a difesa di eventuali attacchi del Pyongyang, Pechino chiede lo stop al dispiegamento, pronta ad agire a tutela dei suoi interessi. Insomma, una situazione complessa di cui poi torneremo a parlare. E poi, per quanto riguarda la France, gaffe di Marine Le Pen, che avrebbe copiato nel suo discorso di ieri vicino a Parigi buona parte del discorso che il candidato della destra Fillon ha tenuto lo scorso 15 aprile. Anche su questo torneremo a parlare collegandoci con la Francia. E questo intervento della cancelliera tedesca Angela Merkel in visita a Sochi in Russia, ha chiesto a Vladimir Putin, presidente russo, di proteggere i diritti dei gay in Cecenia dopo la denuncia del giornale Noaia Gazeta, che ha pubblicato una serie di reportage denunciando che la polizia cecena arresta, tortura e uccide le persone sospettate di essere omosessuali. E poi il clima, una notizia che riguarda il clima: nuovo record per la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che ha oltrepassato la soglia di 410 parti per milione. L'osservatorio di Mauna Loa nelle Hawaii, la più antica stazione di rilevamento dell'anidride carbonica al mondo, ha registrato 412 parti per milione il 26 aprile scorso. Gli esperti del Met Office, l'agenzia britannica per la meteorologia, avevano previsto questo record per maggio, invece è arrivato molto prima, purtroppo. Intanto l'OMS dice che lo smog uccide 3 milioni di persone all'anno per danni al cuore e al cervello, ed è sempre più lunga la lista degli effetti negativi sulla salute. Sarà per questo che ora si stanno facendo degli esperimenti, stanno pensando di piantare delle campanule su Marte, Campanole potrebbero essere tra le prime piante coltivate negli insediamenti umani su Marte. I loro semi sono infatti capaci di sopravvivere alle massicce dosi di raggi ultravioletti tipiche dei viaggi interplanetari grazie a uno scudo ricco di antiossidanti che potrebbe ispirare una nuova generazione di integratori per astronauti e animali diretti verso il pianeta rosso. A indicarlo è uno studio pubblicato su Astrobiology, quindi evidentemente con il nostro pianeta che rischia di andare a ramengo si pensa di coltivare intanto le campanule su Marte, che non si sa mai. Per lo sport, il mondo del ciclismo rende omaggio a Michele Scarponi. A lui sarà dedicata la salita del Mortirolo nell'edizione 2017 del Giro. Chissà cosa avrebbe pensato Michele Scarponi se gli avessero detto che la montagna più temibile di questo centesimo Giro d'Italia, il mitico Mortirolo, sarebbe stata dedicata a lui. «Mi tocca sempre stare dove c'è da faticare», avrebbe detto. «L'ho fatto per una vita, pazienza, lo farò ancora, che pure sto più in alto di tutti. Mi raccomando ragazzi, quando non ce la fate più in salita, non prendetevela però con me». Bella idea questa dedica, adatta per Scarponi, gregario e capitano, lavoratore e grande affabulatore del gruppo, rappresentante anche nella cattiva sorte di tutti quei ciclisti che ogni giorno muoiono sulla strada. Perché andare in bicicletta, alla fine, è ancora un'attività dove basta un secondo per essere rimpianti. E quasi sempre senza dedica. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora direi che rimaniamo con lo sport, con Giovanni Capuano per il calcio. Si parla di Spagna qui, vero Giovanni? Sì, si parla di Spagna e della prima semifinale della Champions League, Real Madrid contro Atletico Madrid. La stiamo vedendo da 32 minuti e stiamo vedendo una partita bellissima, piena di occasioni, con il Real Madrid che è in vantaggio per 1-0. Il gol, tanto per cambiare, lo ha segnato Cristiano Ronaldo dopo 10 minuti, un colpo di testa, per lui il gol numero 101 nella Champions League, e pensa che in tutta la sua storia l'Atletico Madrid in Champions League di gol ne ha fatti 100. Quindi Ronaldo da solo ne ha fatto uno in più, però è una partita davvero stupenda. Il Real Madrid sta dominando, primi 25 minuti 10 tiri in porta a zero, ha avuto occasioni con Carvajal, Benzema prima del vantaggio di Ronaldo, e poi è andata vicinissima al 2-0 con un colpo di testa di Varane, poi ancora con un destro dal limite di Modric e con una rovesciata di Benzema. Oblak, il portiere dell'Atletico Madrid, ha fatto gli straordinari nella prima mezz'ora di partita. Atletico Madrid che si è visto con due contropiedi, anche se in realtà non ha ancora tirato una volta nello specchio della porta, però è stato pericoloso con Gameiro, che è stato fermato in uscita disperata da Keylor Navas, e pochi istanti fa con una deviazione di Godin sugli sviluppi di un calcio di punizione il centrale dell'Uruguay ha però messo la palla alta. 33 minuti, partita davvero bellissima, Juventus che osserva con grande attenzione, perché da qui potrebbe uscire in caso di qualificazione contro il Monaco, uscirà anzi sicuramente in caso di qualificazione l'altra finalista di Cardiff, e quindi la possibile avversaria nell'ultimo atto verso la Champions League. Grazie Giovanni Capuano, poi capiremo, ci aggiorneremo ancora più tardi per capire come procede la partita. Nel frattempo noi procediamo con gli altri fatti della giornata, quelli più, diciamo, più ponderosi, più importanti. Prima di tutto aggiorniamo chi sta viaggiando, poi voi continuate con la vostra interazione con Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma oppure al 349 238 6666, numero per WhatsApp ed SMS. Per esempio dice Pietro: Roberta, guardi che le accuse alle ONG sono tirate solo da una parte, noi democratici amanti del diritto resistiamo senza tirare da nessuna parte, mentre, chiede un ascoltatore, ci sono magistrati di regime come quello di Siracusa, però non si capisce perché deve essere di regime se dice quello che pensa, che ritiene dai fatti che non ci siano accuse fondate contro le ONG, qualcun altro invece ritiene di sì. Adesso stiamo a vedere come procederà questa inchiesta. Servizi deviati, dice, comandanti dei carabinieri indagati su Consip, giornalisti venduti, ma per caso, dice, non ne viene il dubbio che ci sia qualcosa di anomalo in Italia. In Italia di cose anomale ce ne sono tantissime, non so se siano quali siano precisamente, se contenute, diciamo, nel messaggio di questo ascoltatore. Poi qualcuno che comincia a dire si preoccupa del prestito ponte dall'Italia, di cui parleremo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e vi ho raccontato come sempre in sintesi all'inizio le notizie più importanti della giornata con i servizi. Adesso cominciamo invece con gli approfondimenti, con alcuni temi in particolare, cominciando dall'Italia. Poi parleremo anche di questo boom di disoccupazione per i cinquantenni. Qualcuno dice giustamente, come fino a qualche tempo fa ci dicevano che i cinquantenni andavano forte rispetto ai più giovani, adesso invece sono loro che sono maggiormente disoccupati. Ci occuperemo anche di questo più tardi, dopo questo primo tema. Intanto volevo aggiornarvi anche su altre notizie, per esempio questa di un uomo, un 77enne, che a Monopoli in Puglia è caduto da una scogliera, ha battuto la testa ed è morto, e secondo i testimoni sarebbe stato spinto durante una rapina. Quindi adesso stanno indagando i carabinieri per verificare se sia stato effettivamente spinto da un gruppo di ragazzini che lo volevano rapinare. Allora, tra pochissimo i titoli principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi tutte le sere, effetto notte dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo, a proposito di notizie importanti. Vi ricordo allora i fatti principali di oggi. All'Italia, svolta, Gubitosi, Laghi e Paleari saranno i tre commissari per l'amministrazione straordinaria, questo deciso con il decreto del ministro dello sviluppo Calenda, e poi un prestito da 600 milioni. Legge elettorale, il PD lavora un sistema tedesco con una soglia di sbarramento al 5%, intanto Pisapia, ex sindaco di Milano, dice se il PD dice no faremo noi un centrosinistra alternativo. E poi svolta in Libia, accordo tra il premier Sarraj e il generale Haftar su elezioni nel 2018, oggi l'incontro ad Abu Dhabi. Il PM di Siracusa sui presunti legami tra ONG e trafficanti dice non ci risultano, e il presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare sui Servizi Segreti, Stucchi, dice nessun dossier degli 007, non ci sono rapporti su questo tema. DJ Fabo, la morte di DJ Fabo, vi ricordate, in Svizzera è stata chiesta l'archiviazione per Marco Cappato, che lo aiutò a esercitare, dicono i PM, un suo diritto. La strage delle donne, 4 uccise in Italia nelle ultime 24 ore per mano maschile, e poi arrestati sindaco e assessore di Terni per appalti, sono ai domiciliari. Giro d'Italia, omaggio a Scarponi, il ciclista morto investito nelle settimane scorse, il Mortirolo sarà la tappa a lui dedicata. E cominciamo, come dicevo, dalla crisi di Alitalia. Il ministro dello sviluppo Calenda oggi ha disposto con decreto l'ammissione di Alitalia all'amministrazione straordinaria, con 3 commissari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi, Stefano Paleari. Il ministro ha detto la situazione è grave, rammarico per il referendum dei lavoratori che nelle settimane scorse ha bocciato il piano di salvataggio. Ci sarà, ha detto, un prestito ponte da 600 milioni. Vogliamo sentire un passaggio del ministro dello sviluppo Calenda? Il mandato che abbiamo dato ai commissari è un mandato ampio nello spettro, ma limitato in termini temporali. Cioè possono anche ovviamente cercare di lavorare con le banche per capire se c'è un'operazione di assunzione e quindi una soluzione, diciamo, che sia più vicina a una ristrutturazione e o di vendita. Il prestito ponte è fatto a condizioni definite con l'Unione Europea, condizioni di mercato, perché così come deve essere, è Euribor più 1000 punti, quindi non è un prestito affatto a, diciamo, a buon prezzo, come del resto è giusto che sia nelle condizioni date. E poi anche Gentiloni, presidente del Consiglio, che ha detto è un prestito questo, ma non è una nazionalizzazione. La continuità, sia pure per un periodo di amministrazione straordinaria, per definizione limitato nel tempo, che abbiamo deciso di assicurare, fa parte, io credo, dei doveri di responsabilità del governo. Il governo prende una decisione che consente un periodo di transizione, ma che certamente non prelude a un far carico ai contribuenti italiani sotto forme di nazionalizzazione del futuro strategico di questa azienda. Quale sarà il futuro strategico per questa azienda che non decolla? Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Ciao Giorgio. Sì, buonasera. Allora, quindi oggi la nomina di questi amministratori straordinari, no? Quindi entra nel vivo il momento più delicato per l'Italia, che può portare alla cessione del vettore al miglior offerente, tutto intero, oppure a spezzatino, come si diceva nei giorni scorsi, no? Un po' diviso in vari pezzi. Sì, c'è da dire che insomma il governo in realtà fa un'altra scommessa. Cioè, i casi di innanzitutto c'è da dire che sono intervenuti con una certa rapidità, perché questa mattina c'è stata l'assemblea dei soci che ha confermato non si poteva fare la ricapitalizzazione mancando le condizioni, cioè mancando l'intesa col sindacato. Il consiglio d'amministrazione si è riunito subito dopo per dire sostanzialmente fare la richiesta di amministrazione straordinaria. E a distanza di poche ore si è riunito il Consiglio dei Ministri, e proprio espressamente sull'Italia. 2 decreti, uno è appunto il decreto del mese per la nomina dei tre commissari, e l'altro è appunto il decreto legge per la richiesta. finanziamento ponte appunto per 600 milioni. Ebbene, qual è, diciamo, il caso di, diciamo, i casi di scuola sull'amministrazione straordinaria vogliono che solitamente gli i commissari procedono con la finalità di garantire l'equilibrio dei conti alla vendita, diciamo, dei singoli asset o alla vendita in blocco, diciamo, della compagnia al miglior offerente, e poi se tutto ciò, diciamo, fallisce si procede in ultima analisi alla liquidazione. Però il governo, nella serie di dichiarazioni che hanno fatto sia il ministro Calenda che Delrio, ha lasciato intendere che la missione, diciamo, che viene data poi ai commissari è quella di invece procedere, come dire, alla ricerca di un socio forte. Quindi, diciamo, la pulizia, dovrebbero fare pulizia sostanzialmente i commissari di quelli che sono, diciamo, le diseconomie, diciamo, no, della compagnia, e perché adesso in queste condizioni nessun socio potrebbe essere interessato a partecipare alla capitalizzazione. Però appunto, se venisse fatta questa operazione, la scommessa del governo in sostanza è quella di trovare un socio forte che un domani, non oggi, ma un domani possa essere interessato a subentrare. Giorgio, a proposito di questo prestito ponte, cioè ponte nel senso di dargli continuità finché poi si avvia appunto verso un qualche acquirente, no? Tanto lo Stato presta questi 600 milioni, ci sono già molti messaggi preoccupati da parte degli ascoltatori. Per esempio Gianni dice: prestito ponte, praticamente lo Stato ha buttato via altri 600 milioni, perché secondo voi l'Italia pagherà lo Stato? Ma chi volete prendere in giro? Walter dice: stanno parlando di un primo prestito ponte, dei già stimati 400 milioni ora sono diventati 600, ma dato che non saranno mai restituiti dall'Italia è già un finanziamento pubblico occulto. Che ne pensi, Giorgio? Ma che ne penso? Allora, qui si tratta di capirsi sulle priorità, cioè voglio dire, questo è un prestito ponte, quindi viene, è stato posto, anzi anche le lo fanno pagare anche abbastanza caro, perché sono 1000 punti sopra l'Euribor, non gli regalano niente sostanzialmente. Quindi loro entro 6 mesi dovrebbero restituirli, si immagina probabilmente con la vendita di alcuni asset. Il punto però è capirci su quella che è la priorità, cioè il governo ha posto in questo momento come priorità il fatto della garanzia, diciamo, della continuità. Anche, questo vale anche per tutte quelle persone che hanno per esempio comprato biglietti all'Italia e che di qui, diciamo, ai prossimi mesi dovrà essere garantito che potranno viaggiare. Cosa appunto, la compagnia ha un disperato bisogno di liquidità per pagare fornitori e stipendi, e quindi hanno fatto la scelta del governo è quella: non nazionalizziamo, però garantiamo la continuità aziendale per consentire in questo contesto, in questo quadro di certezze, di procedere appunto alla ricerca poi di un partner sostanzialmente. Ecco, poi se questo fallisse, questa operazione dovesse non andare a buon fine, certo, in ultima analisi c'è sempre lo spettro della liquidazione. Quindi è un fatto di, come dire, di scelte strategiche, e comunque si sarebbe pagato comunque un prezzo, perché faccio solo un esempio: anche la liquidazione comunque comporta un prezzo, tu devi pagare comunque l'indennità di disoccupazione per esempio a quei 12.000 dipendenti, no, che vengono messi, e questo ha un costo sociale, cioè comunque in qualche maniera un costo sulla collettività ci sarebbe stato. In questo caso viene fatto sotto forma di prestito. Giorgio, per chiudere, ma abbiamo proprio un minuto, tu riusciresti in una sintesi estrema a far capire come si è arrivati a questa situazione di Alitalia, che più volte ha cercato di decollare ma è rimasta poi a terra? Ma questa, diciamo, è una storia lunga che andrebbe poi riletta, hai ragione, cioè bisognerebbe tornare già all'operazione che fu fatta nel 2008, vi ricordate? 2007, c'è ancora il governo Capitani Paolo. Coraggiosi lì. Air France fa un'offerta interessante, Berlusconi fa la campagna elettorale dicendo no alla vendita allo straniero della nostra compagnia, ex compagnia di bandiera, fa l'appello ai capitani coraggiosi, si affaccia questa cordata di capitani coraggiosi, però già lì, in quell'operazione, ahimè, in nuce c'era il fallimento di cui stiamo pagando le conseguenze. Perché? Perché, come ha ricordato anche oggi Delrio, il problema non è la concorrenza delle low cost, il problema sono errori strategici. Diceva. All'epoca, se andate a rivedervi poi le carte, diciamo il piano che fu fatto nel 2008, venne tagliato il lungo raggio, che è il segmento più ricco, diciamo, dove si fanno gli utili, in controtendenza rispetto a tutti i grandi giganti, diciamo, i grandi competitor che invece sviluppavano il lungo raggio, per concentrarsi sui collegamenti nazionali e intraeuropei, che sono quelli che più subiscono la concorrenza delle low cost. Quindi per errori, oggi noi paghiamo errori strategici fatti dai management che dal 2008 ad oggi hanno governato, diciamo, l'azienda, e appunto che sono andati che in un mercato peraltro che è in crescita, perché la cosa sconvolgente è che la compagnia perde ben oltre 1 milione al giorno in un mercato che sta crescendo. Però chi beneficia di questa crescita sono i competitor di Alitalia. Allora l'Italia, in virtù proprio di una serie di errori strategici, poi il discorso è lungo, bisogna anche vedere tutta la serie di diseconomie che c'erano proprio nella gestione. Anche però, di eccessivi privilegi, almeno fino a qualche anno fa, no, del personale viaggiante, eccetera, anche autisti, stipendi fuori. Vabbè, comunque, ci fermiamo qui per il momento. Grazie Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. Ciao Giorgio. Buonasera. Buona serata e buon lavoro, visto che deve chiudere vari pezzi. Adesso noi chiudiamo brevemente per questa pausa, poi ritorniamo insieme e parliamo di disoccupazione, cioè questo diciamo sorpasso storico in negativo dei cinquantenni sui più giovani. Sono più disoccupati i cinquantenni. 349-238-6666 per i vostri commenti su WhatsApp e SMS, o se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo parlato di Alitalia, di questo prestito ponte, della decisione appunto, della scelta dei tre commissari per l'amministrazione straordinaria, questo periodo di transizione di Alitalia. Adesso, tra poco vi ricorderò i fatti principali, se non avete acceso puntualmente alle 21, parliamo invece di disoccupazione, perché ci sono dei dati dell'Istat tra luci e ombre, anche se sono provvisori, ma insomma non è un quadro particolarmente confortante. Dice un ascoltatore: ma se un imprenditore fallisce, fanno un prestito ponte? Lo so, questo è una cosa di interesse strategico nazionale, quindi altre proporzioni, diciamo. E poi invece un altro messaggio al 349-238-6666: siamo il paese nato per il turismo e non sappiamo far volare gli aerei, siamo degli incapaci. Sicuramente è una situazione paradossale. Poi anche c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, la quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Vi ricordo quindi i fatti principali. All'Italia, la compagnia ammessa all'amministrazione straordinaria, come avete sentito, ha nominato i tre commissari, prestito dello Stato da 600 milioni di euro. A proposito dei presunti legami tra organizzazioni non governative e trafficati di esseri umani, dice il procuratore di Siracusa che non risulta che vi siano. Il presidente del Copasir, Stucchi, precisa non c'è alcun rapporto dei servizi segreti su questo argomento. Disoccupazione, ne parleremo tra pochissimo. La strage delle donne continua, nelle ultime 24 ore sono 4 le donne uccise per mano maschile a Genova, a Roma, nell'Interland di Cagliari e nel Salernitano. La morte in Svizzera di DJ Fabo è stata chiesta all'archiviazione per Marco Cappato, che aiutò il trentenne a morire in Svizzera. E poi Libia, l'accordo tra il primo ministro Serraj e il generale Haftar, ci saranno nuove elezioni nel 2018. Per quanto riguarda il Nord Corea accusa gli Stati Uniti di volere la guerra nucleare, la Cina non vuole lo scudo a Seul, intanto Trump vedrebbe Kim Jong-un, dice, ma per ora mancano le condizioni. Addio a Valentino Parlato, militò nel PC fino all'espulsione nel 1969, fu tra i fondatori del Manifesto. Ciclismo, il Giro omaggia Michele Scarponi, dedicata a lui la salita del Mortirolo. Quindi dicevamo, dei dati Istat sulla disoccupazione è un, diciamo, un rapporto con luci e ombre per quanto riguarda il mese di marzo, perché i giovani senza lavoro sarebbero ai minimi da 5 anni al 34,1%, a marzo comunque torna a salire la disoccupazione, è all'11%, ma c'è questo dato particolare che è l'aumento boom di disoccupati tra gli over 50. Le persone in cerca di lavoro che superano i 50 anni erano a marzo 567.000, cioè 59.000 in più rispetto a febbraio, al mese precedente, a 103.000 in più rispetto a marzo 2016, quindi a un anno fa. Il numero di disoccupati in questa fascia di età è massimo dall'inizio delle serie storiche, che partono dal 2004. Ne voglio parlare con il sociologo del lavoro per antonomasia, il sociologo per antonomasia in Italia, che è Domenico De Masi. Buonasera professore. Buonasera a voi. Quindi si parla di quasi un sorpasso storico, nel senso che fino a qualche tempo fa, come scrive anche qualche ascoltatore, ci dicevano che come i cinquantenni andavano bene, trovavano più lavoro, erano meno disoccupati dei più giovani, invece adesso sono gli over 50, gli ultra cinquantenni, e probabilmente c'è anche il rischio che, se finora hanno rappresentato, soprattutto dai 60 in poi, comunque un appoggio, un riferimento per i più giovani che non avevano indipendenza economica, a questo punto che succede se anche gli ultra cinquantenni, professore, sono disoccupati? E naturalmente, se si è disoccupati a quell'età, si fa molta molta più fatica, per non dire che, voglio dire che sia impossibile, ma insomma è difficile trovare un'altra occupazione, visto che lavorate certo, poco. Certo. Guardi, oscillano questi dati, nel senso che appunto fino a poco tempo fa si sapeva che invece in quella fascia di età la disoccupazione era leggermente, ma molto leggermente inferiore a quella dei giovani. Ma il problema non sono queste oscillazioni, che naturalmente cambiano da trimestre in trimestre, è che complessivamente l'occupazione declina. Noi abbiamo questa situazione, vedete, nel 2000, quando c'era Berlusconi presidente del Consiglio e Maroni ministro del lavoro, l'occupazione, gli occupati in Italia erano il 57,1%, poi sono passati questi 17 anni, si è fatto il Jobs Act, che è costato quasi 20 miliardi di euro, si è fatta la legge Biagi, è stato abolito l'articolo 18 e così via, e oggi con Gentiloni presidente del Consiglio e Poletti ministro del lavoro, gli occupati in Italia sono il 57,1%, proprio quanti erano nel 2000. Quindi c'è qualcosa che non ha funzionato. Di mezzo c'è stata la crisi, vogliamo dire così, professore, fra le altre cose? Di mezzo c'è stata la crisi, e c'è stata anche quella che tutte le serie telegiornali ci annunciano come piccola ripresa. Comunque ormai sappiamo che i paesi ricchi, e noi siamo tra questi, perché su 196 paesi siamo all'ottavo posto per prodotto interno lordo, sappiamo che i paesi ricchi non cresceranno mai più con cifre tipo 4-5 punti all'anno. Noi cresceremo nel migliore dei casi 1,5-2% nei casi proprio meravigliosi, e non è detto che quando gli imprenditori, passata la crisi, avessero più soldi in tasca, li investirebbero per comprare operai, probabilmente li investirebbero per comprare robot, per comprare fra qui a poco intelligenza artificiale. Quindi siamo di fronte a un fenomeno molto più ampio, che prescinde da queste oscillazioni trimestrali. Siamo di fronte a una situazione di disoccupazione in Italia che è molto molto più forte di quella tedesca e abbastanza più forte di quella francese. E allora, se si va a vedere i dati reali, si scopre qual è la causa di tutto questo. In media gli italiani che lavorano, sono 23 milioni, lavorano per circa 1800 ore all'anno, 1760-1800 ore all'anno. Andiamo a vedere in Francia. In Francia invece i nostri colleghi, che hanno poi la fama di lavorare più di noi, lavorano circa 1500 ore all'anno, quindi 300 ore in meno. Andiamo poi in Germania. La Germania ha fama di un paese di operosissimi lavoratori. Bene, in Germania le ore di lavoro medie sono di 1400 all'anno, cioè 400 meno che in Italia. E noi facciamo la parte dei fannulloni, professore. E noi facciamo anche la parte dei fannulloni. A Napoli, che è la mia città di riferimento, c'è un detto che dice cornuti e mazziati. Significa praticamente che ci prendiamo i danni da entrambi le parti, diciamo così. Per quanto riguarda i giovani, c'è anche qui un problema di calcolo che raramente viene spiegato. Vede, i giovani disoccupati sono quei giovani che non studiano e non lavorano. Se per caso studiano, non sono considerati disoccupati. Allora andiamo a vedere in Italia quanti giovani in età universitaria studiano, e scopriamo che sono intorno al 36%. andiamo in Francia, andiamo in Germania e troviamo che sono molti, molti di più. Quindi anche la disoccupazione giovanile, se noi avessimo una percentuale pari di studenti universitari, sarebbe molto più bassa da noi. E quindi, come vede, i problemi si risolvono partendo dalla loro causa reale. Noi, per avere la disoccupazione tedesca, dobbiamo avere gli stessi quantitativi di lavoro. Dobbiamo lavorare meno ore ciascuno di noi. Non c'è dubbio, 400 ore in meno in media rispetto alla Germania, avendo naturalmente accontentandoci degli stessi salari. Stessa cosa vale per la Francia. 300 ore in meno rispetto alla Francia, però se adottiamo gli orari francesi recuperiamo circa 3 milioni di posti di lavoro, se adottiamo gli orari tedeschi recuperiamo circa 6 milioni di posti di lavoro. Caspita. Professore, tra l'altro c'è Lucio da Vicenza, credo scriva, che dice che parla da 52enne, il dato dell'aumento della disoccupazione per questa fascia d'età non è un dato anomalo, anzi sarà peggiore più avanti si va, perché dice le aziende rinnovano, noi rimaniamo indietro anche a livello tecnologico. Per chiudere, professor De Masi, c'è effettivamente il rischio di disastro sociale per gli over 50 tra licenziamenti da una parte e poi l'età pensionabile che si allontana sempre di più, quindi diventa complicato incastrarsi da qualche parte. Proprio per chiudere, abbiamo ancora pochi secondi. Tenga conto che ora si vive per fortuna più a lungo. Un tempo quando si andava in pensione praticamente poco dopo si moriva. Tra l'altro tenga conto che quando fu introdotta la pensione in Italia, mi pare nel 1919, la pensione era 55 anni per le donne, 60 anni per i maschi, ma la vita media era di 53 anni, quindi è come se oggi la pensione fosse a 100 anni, Ma è chiaro che la disoccupazione di un cinquantenne o ultra cinquantenne è un fatto gravissimo. Perché significa che non ci sono i soldi per i figli, per far studiare i figli, per pagare i mutui della casa, mentre un giovane praticamente è disoccupato, comunque trova in famiglia un certo welfare. Quando poi il disoccupato, il capofamiglia, è un disastro. Ecco, come si diceva appunto, professore. Grazie intanto, professor Domenico De Masi. Grazie a lei. Grazie, situazione veramente, insomma, diciamo sicuramente non rosea, e qui se non si adottano delle politiche del lavoro oppure una discussione sugli ammortizzatori, insomma ci sono diverse cose di cui ridiscutere. Tra pochissimo ci trasferiamo in Francia, intanto viabilità. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, che adesso quelle più importanti ve le ricordo in pochi secondi. Roberta Giordano sempre con voi per i vostri commenti. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Vari commenti sono arrivati naturalmente su Alitalia, perché oggi il ministro Calenda con decreto l'ha ammessa la compagnia all'amministrazione straordinaria. Sono stati nominati 3 commissari e c'è stato questo annuncio del prestito ponte da 600 milioni. Poi, a proposito dei presenti legami tra organizzazioni non governative e trafficanti, il procuratore di Siracusa, oggi è lui a parlare, dice non mi risulta che vi siano, e anche il presidente del COPASIR, Comitato Parlamentare sui Servizi Segreti, precisa non c'è alcun rapporto da parte degli 007. Disoccupazione, ne abbiamo appena parlato con il boom dei disoccupati over 50, e poi la strage delle donne nelle ultime 24 ore, sono 4 le donne uccise in Italia per mano maschile. La morte in Svizzera di DJ Fabo, è stata chiesta l'archiviazione per Marco Cappato, e adesso parliamo di Francia. Sapete che domenica si vota il ballottaggio per le presidenziali francesi, l'aria è tesa e in fermento, insomma, e c'è stata questa gaffe di Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra, che a pochi giorni appunto dal ballottaggio, nel suo discorso del 1° maggio a Villepinte, vicino Parigi, ha praticamente il suo discorso copiato interi paragrafi del discorso che aveva tenuto giorni fa Fillon, che era il candidato adesso poi eliminato, della destra. Evidentemente un caso imbarazzante di plagio. Ne parliamo collegandoci con Parigi, con Marco Mussanè del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Buonasera a voi. Potrebbe costarle questo copia incolla? Non credo, francamente. Mi sembra un peccato veniale, tutto sommato, a parte che poi lei questa sera ha cercato di spiegare che in realtà era voluto per fare così una strizzata d'occhio all'elettorato di Fion, con cui sostiene, anche se un po' imbarazzante anche la spiegazione stessa, no Marco? Sì, no, ma non c'è dubbio, no, ma è evidente che tutto basterebbe, però ecco, no, io non credo che questo sia un episodio determinante rispetto all'esito elettorale. Non credo che questo le possa allontanare dei voti, mi sembrano più problematiche altre questioni di fondo, a partire ovviamente dalla vicenda dell'euro, su cui anche al fronte nazionale Maria Meloni si sta facendo un po' di confusione in questi giorni. Senti, invece si aspettava che Michelon, il candidato della sinistra radicale, che appunto non è stato comunque eliminato in questa corsa, perché sappiamo che domenica il ballottaggio sarà appunto tra Marine Le Pen e il centrista Macron, però si attendeva che Mélenchon, così come Fillon e come gli altri candidati che sono stati eliminati, dicessero insomma i loro sostenitori verso chi devono convogliare i voti a questo punto, no? E Mélenchon invece sì, pare che abbia detto solo per l'astensione, oggi ha deciso, o per la scheda bianca, insomma. Sì, in realtà non è proprio così, diciamo che l'elettorato della sinistra radicale, insomma, di questo movimento creato appunto da Mélenchon, la Francia ribelle, è un elettorato che effettivamente è un elettorato movimentista, che non se la sente in larga parte di votare Macron, il che per certi versi è abbastanza comprensibile, quindi come risulta appunto dalla consultazione fatta online con gli iscritti al movimento, la maggioranza di loro opterà o per l'astensione o per il voto bianco. Mélenchon non ha dato indicazioni di voto, ha garantito che lui no, ovviamente non voterà Le Pen, andrà a votare, sì, è presumibile che anche lui opterà per una scheda bianca o nulla. Ecco, è una posizione che sicuramente ha creato molte polemiche in Francia, in un momento in cui c'è da fare, come dire, un fronte da erigere, un fronte contro l'estrema destra. Bisogna tenere presente che però ovviamente Mélenchon fa un ragionamento anche di tipo politico finalizzato alle prossime elezioni legislative. Lui sa che il suo elettorato è comunque un elettorato che tendenzialmente non voterà la Le Pen, ma è anche molto molto critico nei confronti di Macron. Lui tenta quindi con questa, diciamo, posizione un pochino ambigua di preservare il proprio potenziale elettorale per le legislative di metà giugno. Bene, Marco, quindi adesso tu pensi dai sondaggi, dagli ultimi sondaggi che sono stati fatti in Francia, che ci sia qualche possibilità? Forse è anche, diciamo, magari inutile anche chiederselo, perché abbiamo visto cosa è successo con Trump e non resta che aspettare, in fondo mancano pochissimi giorni, no? A domenica. Ma, no, io non farei però riferimento a quello stesso con Trump, per almeno un paio di ragioni. La prima è che i sondaggi francesi sono molto più affidabili di quelli americani, vengono fatti anche con un sistema diverso, tant'è vero che al primo turno ci hanno preso quasi al decimo di punto. Teniamo anche presente en passant, per essere riconoscenti nei confronti dei sondaggisti americani, che anche loro ci hanno preso sul voto popolare, in cui ha vinto la Clinton, pur avendo perso poi per questo sistema pazzesco che hanno di elezioni negli Stati Uniti le presidenziali. Però insomma, ecco, no, io credo che ci possiamo tutto sommato fidare dei sondaggi, sono dimostrati affidabili. Lo scarto è molto molto ampio, secondo me non recuperabile, quindi io penso che la partita sia giocata e che vincerà Macron. Chiaro. Dopodiché ci può essere un cataclisma, ma insomma ecco, in condizioni, diciamo, normali, Macron non ha alcuna, cioè la Le Pen non ha alcuna chance di vincere. Chiarissimo, grazie Marco Mussanè. Salutaci Parigi. Adesso invece andiamo, ciao Marco, direttamente a New York, negli Stati Uniti, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Caro Marco, questi rapporti tesissimi tra Corea del Nord e Stati Uniti. Stati Uniti, Trump che aveva risposto alle minacce nucleari del dittatore nordcoreano con minacce di intervento. Poi ieri è divenuto più miti consigli, dice ma potrei incontrarlo se vi sono le condizioni. Non sembra che vi siano per il momento, però insomma sta cercando di adottare una strategia. Da una parte, come si dice, il bastone, dall'altro la carota. Insomma, un po' di diplomazia, un po' di denti digrignati. Sì, credo che tu abbia ragione. Diciamo, la politica estera americana resta avvolta con Trump, soprattutto da un velo di quello che potremmo forse definire un'estrema personalizzazione, cioè nel senso Trump diciamo agisce d'impulso, almeno a parole, e però queste parole provenendo poi dalla Casa Bianca, dall'ufficio della Presidenza, hanno una ripercussione, hanno un impatto non indifferente, quindi rischiano di generare poi confusione, tensioni, interrogativi sia tra gli alleati che tra gli avversari, e questa, diciamo così, questa che sembra essere quella che definisce la strategia, cioè un po' del bastone della carota, cioè alzare il tiro per un certo verso e poi dall'altra offrire però la possibilità di aperture diplomatiche, ecco, forse diciamo, forse può essere definita una strategia, ma resta tutto da dimostrare se abbia poi un senso in termini di risultati concreti. Al momento sembra difficile vederli, staremo a vedere. Sicuramente, ecco, la confusione però quella e le tensioni sicuramente sono certe, appunto questo riferimento che tu citavi alla possibilità di un incontro faccia a faccia con il dittatore nordcoreano ha lasciato perplessi, proprio perché di fatto le condizioni non ci sono, e quindi aprire, diciamo, un presidente americano che comunque apre questa possibilità nel momento in cui le condizioni concrete non ci sono lascia perplessi, così come ha suscitato comunque di perplessità e dibattito l'invito alla Casa Bianca di vari leader del sud-est asiatico, anche per aumentare così il coinvolgimento nel risolvere la crisi della Corea del Nord, invito a Singapore, al Thailandia e anche alle Filippine, un invito che però è stato accolto non esattamente come previsto dal leader delle Filippine, Duterte, che ha sostanzialmente fatto capire che forse potrebbe essere troppo impegnato per incontrare Trump, non si sa bene, impegnato forse nell'ammazzare troppa gente, visto che una delle sue caratteristiche è quella di uomo forte, è quella di aver condotto questa campagna totale di lotta alla droga, soprattutto verso sospetti spacciatori o persone drogate. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco, noi ci riaggiorniamo brevemente alle 22.